Ma Giuseppe, speriamo che oggi ricominci, perché io mi sono rotto al cazzo qua, senza Zanza. Hai finito la trasmissione in anticipo, ci hai lasciato nel dubbio, a settembre ci sarà o non ci sarà la Zanzara? Oh, ma dove cazzo vai? Giuseppe, mi manchi. Quando cazzo tornate che mi voglio drogare ancora? Ciao, a dopo, sì, ciao. La Zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Pronto? Reparto di psichiatria degenerativa? Ah, no, è la Zanzara. Vabbè dai, fa lo stesso. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. Cruciani, abbiamo acceso la radio e non ci stai. Dove cazzo stai? Cruciani, sono le 6.34, porco 2. Primo lunedì senza Zanzara. Ragazzi, non avete idea dello sconforto che è in me. Stavo per accendere la radio, ma poi mi è venuto in mente. Il Crux ha mollato. Per ora, spero. Per ora. Oh, me volete di quando rinizia la Zanzara? Oh, ma che cazzo dite? Ma siamo a metà luglio! Ma che cazzo fai quest'anno? 6 settimane di ferie, porca puttana! E noi? E noi che ci pensa, pezzo di merda? E io lavoro per altre 3 settimane prima delle ferie, eh? Ma vaffanculo, va! Allora, cioè, ve lo dico subito, Vi avverto! Ma io vi avverto, dite a quei capoccioni che vi sono sopra di voi, io sono già in crisi di astinenza dalla Zanzara. Sono passati 1 minuto e già sono in crisi di astinenza. Se a settembre non c'è la Zanzara di nuovo, vengo in quel viale di merda, Monte Rosa, e vi do fuoco a tutti. Viale di merda, adesso viale Monte Rosa è un bel viale alberato, pieno di gente per bene, cittadini milanesi normali, cioè in questo palazzo pure c'è gente abbastanza rispettabile, Parenzo, no, non ci sono banditi a mano armata. No, in queste... noto sempre parole misurate, parole no, molto tranquille. Diciamo nessuna... che nei primi 3 minuti di questa trasmissione ho sentito 4 cazzi, 5 affanculo e 3 di mortacci tua. Aspetta un attimo che non è finita, però, che queste ci sono alcuni molto molto belli. Ah, che devo... mi sembrava strano. Devo però ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato una tonnellata di messaggi, lo faccio in questo modo. Continuiamo per un po', continuiamo. He stands like a statue, becomes part of the machine. Beating all the bumpers, always playing clean. Perfino lo zingaro all'incrocio è tornato a lavorare. Cruciani, cazzo, quando torni? Aspetto più il 5 settembre che il Natale, cazzo. Oh, Cruciani, Parenzo, siete peggio dei politici. 40 giorni di ferie. Barboni. Ma quando tornate? Mi mancate tanto. Questo era un muslim, eh? Questo era un muslim. Muslim. Extracomunitario, Parenzo, questo qua. Extra. Mi pare integrato magnificamente, visto il linguaggio. C'è, Crucia, dai, gli hai fatto a tornare. Tacci tu, De Parenzo. Sì, va bene, l'estate, le spiagge, la musica, la figa, tutto bello. Ora ridateci il nostro sangue e merda quotidiani. Bentornati, miserabili. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Oh, che bello! Abbiamo la politica italiana concentrata sul caso Roma, di cui, come puoi immaginare, Parenzo, non me ne frega assolutamente nulla. Fai male, perché invece è importante. No, l'unica cosa che mi interessa della vicenda 5 Stelle Raggi è quando il sindaco ci dirà chiaramente che le Olimpiadi a Roma non si faranno. A quel punto io accenderò un cero alla signora Raggi. Questo l'ha già detto praticamente. Sì, praticamente. Allora, però non c'è ancora l'annuncio ufficiale, no? Cioè, i 5 Stelle dovrebbero darsi una regolata, dovrebbero dire ufficialmente, senza tante moine, senza tanti impicci, senza tanti imbrogli, senza girare intorno alla vicenda, noi le Olimpiadi non le vogliamo. E a quel punto Montezemolo, Malagò, cioè, tirano giù la Clair, tirano giù tutto, baracche e burattini di Roma 2024, e non ci rompono più i coglioni con questa puttanata delle Olimpiadi, che in realtà sarebbe la tomba di Roma, non la rinascita. Lo so che tu non la pensi così. No, no, io credo esattamente il contrario. Perché sei amico di tutto il Cucuzzaro. Va benissimo, per carità. Sì, Cucu, sono amicissimo da fin dall'elementare di Montezemolo, anche se abbiamo una differenza di età notevole. No, dalle elementari, cioè, se, comunque ti sono simpatiche quelle persone lì, pensi che siano... No, ma penso che se uno vuole governare il paese deve anche governare il fenomeno degli Olimpiadi, senza avere paura di sporcarsi le mani. Farlo con onestà e trasparenza. Uno non è che dice faccio il sindaco di Roma, però non faccio l'appaltino, non faccio questo, non funziona così, amico. Governi, vuoi governare l'Italia? Si può governare anche senza Olimpiadi. Si può governare senza Olimpiadi. Governa anche una macchina importante come quella delle Olimpiadi. Comunque, tutto il resto, le dimissioni, le controdimissioni, la Muraro indagata. Beh, a proposito, l'assessore, quello ai rifiuti, là, la Monnezza, chiamiamolo così, questa qua sì, è indagata e adesso va bene finché non aspettano le carte. Cioè, sono diventati anche garantisti, signori dei 5 Stelle. Sì, appunto. A proposito invece di quell'altra puttanata inaudita del Fertility Day della tua amica Lorenzin, no? Che è una cosa inaudita, tu lo sai, no? La difendi pure su questo, sul Fertility Day? No, guarda, la campagna di per sé è un po' curiosa, però l'idea che la fertilità sia un problema, quello insomma attiene al Ministero della Salute. Poi. Non ho capito, che vuol dire attiene al Ministero della Salute? Non ho capito. No, vuol dire che il Ministero della Salute fa delle campagne anche contro il fumo, no? Cioè ti dice non fumare perché fa male, non bere perché fa male. Sì, ma hanno fatto una campagna in cui c'è addirittura un volantino, non so, una cosa su internet, no, in cui l'ho ritirato, ma no, ma in cui oltre al fatto del cronometro biologico della donna, no, del tempo che passa e non può più fare figli eccetera, no, è assurdo che lo Stato ti dice quando devi fare i figli. Uno fa i figli quando cazzo vuole, cioè fa i figli quando che vuole, il problema di fertilità e vabbè, ma questo lo sanno tutti, cioè chi non ha fatto i figli è perché non perché cazzo mi sono dimenticato che ero fertile, no, perché non li voleva fare, questo è vero, cioè, perché non li voleva fare, non perché si è dimenticato che era fertile, cioè li volevo fare, ma non è così, cioè, una cosa inutile, cioè questa campagna è totalmente inutile, totalmente inutile. Il sobrio parere di Sgarbone, il quale ha subito detto che si tratta di una cosa tipo farinacci, cioè il fascismo, un po' è vero, no? Lo Stato che ti deve dire quando fai figlio, quando non fai figlio, la fertilità, eccetera, eccetera. Che un governo democratico proponga un piano nazionale della fertilità ci fa pensare in un modo abbastanza nostalgico alle grandi promozioni e alle esortazioni del fascismo. Il piano nazionale della fertilità, proprio le parole stesse che potevo usare, farinacci, ecco, la Lorenzin come farinacci. Arriviamo alla sostanza, Vittorione, vai, in sostanza. Una donna ingravidata è una donna appesantita che è meno libera di sé, quindi si capisce che oggi le donne abbiano qualche resistenza a farsi ingravidare. Il problema è delle donne, non degli uomini. Gli uomini comunque chiavano in ogni caso senza sapere quello che fanno. Questo piano nazionale presuppone che anche le donne siano consapevoli di darla per una finalità nazionale. Datela per Renzi, datela per la nazione, datela per la patria, datela. Si tratta di un rinascimento dell'uccello, che è una delle iniziative governative più degne di interesse e più pericolose per il futuro dei cittadini, i quali una volta nati non troveranno lavoro, i loro genitori già non ce l'hanno, quindi da un lato chi fertilizza fa un'azione utile apparentemente per il governo, tra l'altro il governo garantisce la disoccupazione sia ai genitori che ai figli per essere un governo democratico, quindi fate figli e avviatevi alla disperazione. Allora, ma ti pare normale che si debba discutere, caro David, su quella modella, o non so manco se sia una modella, non so che cosa, che a Venezia ha fatto vedere un po' di, come si dice, no, ma nemmeno la figa, cioè, perché non l'ha fatta vedere, perché era coperta anche da una specie di calzamaglia, no? Cioè, il vestito, ma sì, è normale, come si è discusso di Belen, mi pare, con la famosa farfallina, no? Cioè, Belen, con il mio amico Mughini che si sente offeso da uomo perché una sulla passerella di Venezia porta un vestito in cui si vede, si percepisce. Ma si discute, se uno dai, mette un vestito su, così, però è chiaro che poi se ne discuta, no? Ma perché? Cioè, dire, è normale, uno credo che fa una scelta simile e si espone anche al giudizio. Poi a me non mi interessa nulla, perché uno, quella è la mostra del cinema di Venezia, non è il convegno dei Nobel per l'economia. Ma appunto, ma chi se ne frega di discutere del fatto che questa Salemi sia è arrivata sul tappeto rosso di Venezia praticamente con la figa di fuori, ma fatti suoi, chi se ne frega, la cacciassero dal, non la facessero più sfilare a Venezia, o non le facessero più fare la modella, se qualcuno si arrabbia. Never seen him fall. That gift of a blind kid sure plays a mean pinball. Allora, c'è un senatore della Lega, a proposito del terremoto, no? Delle polemiche sul terremoto, eccetera, eccetera, che sostiene, ma non è il primo, anche il giornale Libero nei giorni scorsi, mi sembra, Parenzo, tu hai seguito più questa cosa, per chi non c'ero, ha sostenuto, ha messo insieme due fotografie, no? I profughi in albergo accolti e gli sfollati del terremoto nelle tende. Allora, finché c'è un giornale che fa una polemica, uno può anche andare, no? Cioè, fa benissimo a fare quella polemica, che è un dato di fatto, ci sono gli sfollati del terremoto che sono nelle tende. Non c'è neanche un migrante che ha tolto una tenda a uno sfollato, questo è il dato. Dunque, secondo te è una polemica ridicola? È una polemica totalmente inutile, ma un conto, come dici tu, è che lo faccia un giornale, e un conto è che lo faccia un politico. Allora, un senatore della Lega dice che alle famiglie terremotate non esiste alcuna tenda sì. che è stata data a un migrante, tolta a uno sfollato. Non esiste. Cioè, secondo te il fatto che i migranti... No, secondo me, aspetta, perché detta la protezione civile, non a che me. I migranti sono in albergo, diciamo, accolti in albergo, mentre gli sfollati, allora, sotto le tende. No, guarda, quelli stanno sotto le tende intanto perché gli sfollati, perché non vogliono abbandonare di un centimetro i loro paesi, e quindi aspettano che vengano costruite. Cioè, dunque, chi sostiene alle famiglie dei terremotati sono stati dati 600 euro al mese agli immigrati, 1100 è un coglione, tu dici. Ma non è uguale, chi ha detto 1100 euro? Signora Arrigoni, sì. Senatore della Lega. Senatore della Lega. Della? Lega Nord per la fu indipendenza della Padania. Aspetta. Sì. Aspetta, senti. Ma alle famiglie, a coloro che hanno deciso di non usufruire dello spazio nella tendopoli, il governo ha stabilito per un nucleo familiare 600 euro al mese per un richiedente asilo, di cui alla fine del lungo percorso si dimostrerà che oltre il 90% è clandestino, non ha diritto alla protezione. Il governo stanzia oltre 1100 euro. Ma il vegano in autostrada come farà a schivare tutti gli insetti? Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta La Zanzara. Ho deciso di lasciare un messaggio vocale alla Zanzara per dare un senso a questa giornata. Pensate come sono ridotto. Comunque, riflettevo su questa signorina che è passata, che ha fatto una mezza sfilata con la figa di fuori a Venezia. Beh, e questo si tratta, cioè, la gente discinta, che diciamo discinta. Ma che discinta, con la figa di fuori com'era? Cioè, non è che era così discinta, era chiaramente, poi per carità, c'aveva sempre la cosa, no? C'aveva sempre quella specie di calzamaglia che in realtà copre, fa finta, simile al colore della pelle, come diavolo si chiamano queste cose qui, manco lo so come si chiamano. Era con la figa di fuori, questa è la realtà. Vabbè, nuda e cruda, come la percepiscono tutti, era con la figa di fuori. Poi una cosa finta, una cosa artefatta, l'ha fatta per il vestito, per il suo amico, se si dica così, no, l'ha fatta per il suo amico stilista, e va bene. ma è l'unico motivo per cui si è parlato di quella roba lì, no? Di quel vestito, di quella passerella, di quella giornata di Venezia, cioè i film vanno e vengono, eccetera. Si è parlato solo di questa roba qua, di quella che passa e tutti a smanettare, tu a vedere quel pezzetto di cosa. Ma guardatevi il porno se dovete guardare una cosa, cioè porno, no? Cioè che ve ne frega, io manco l'ho vista quella roba là, l'ho vista da lontano, vabbè, d'accordo. Cioè dovete guardare una roba che vi arrapa, che cosa andate a guardare? Quella che non si vede nulla, non si vede niente. Oh, quest'altra che dice: al mare vado molto più pudica e vedo gente con gli slippini e in topless. Sta succedendo una tragedia, non ho ucciso nessuno. Non ho fatto un porno, se lo fanno gli altri va sempre bene. L'hai fatto per fare pubblicità al tuo vestito, al tuo amico stilista? Dillo, infatti l'ha pure detto. Mi devono massacrare, ma chi ti massacra? Chi ti massacra? Cioè, non te conosceva nessuno, ti chiami Giulia Salemi. Forse la conoscevano gli addetti ai lavori, hai fatto sta passerella mezza nuda con la figa di fuori, adesso tutti quanti sanno il tuo nome, il tuo stilista, un po' di pubblicità, punto e basta, nessuno scandalo. Non è che uno scandalo Mughini che dice sono offeso come uomo per quell'esibizione e poi guarda YouPorn, ma di che stiamo a parlare? Giampiero! Vabbè ragazzi, dai, Paolo da Roma, vai. Buonasera. Vai, dimmi Paolo, dimmi. Allora, brevissimo. Sulla Muraro, visto che sono romano, infatti sono d'accordo con te quando affermi che è assurdo che se un deputato, un politico del PD è indagato si deve dimettere, anche se prima del processo, mentre lei che del Movimento 5 Stelle ha detto vado avanti. Ma la cosa più grave, volevo dire anche in vostro parere, che è passato inosservato, lei oggi la prima dichiarazione, l'ho sentita proprio al video, quando ha saputo di essere indagata, ha detto questo è un complotto, ma ora a questo punto denuncerò il marcio. Perché denunciarlo a questo punto? Perché è indagata? Perché non l'ha fatto prima? Certo. Io non so che marcio vuole denunciare, a me non me ne frega niente di tutti questi dettagli, che va benissimo, tu segui la politica romana, noi invece ci occupiamo anche di altre cose, eccetera. Io dico solo una cosa, questi qua erano ipergiustizialisti prima, quando qualcuno era indagato ci sono milioni e milioni di post sul blog di Grillo in cui si dice si devono dimettere tutti, i politici tutti indagati, eccetera. Quando è indagato qualcuno di loro, perché da questa sarà sicuramente innocente, la più brava assessore del mondo, è una che capisce di rifiuti, anche se aveva dei legami con i Cerroni, cioè non me ne frega assolutamente nulla. Il punto fondamentale è che adesso sono diventati, bisogna guardare le carte e vediamo, certo. E non si deve dimettere subito, questa è l'unica realtà, l'unica realtà. Andiamo ad Avellino, Claudio, vai. Pronto? Dimmi. Innanzitutto te lo dico ufficialmente, vaffanculo, 50 giorni, qua siamo tutti malati, chi sta sotto ansiolitici, ma che cazzo, dai, 50... Cioè c'hai un papà che ha abbandonato i figli alla fermata dell'autostrada. Guarda, ci hai lasciato con i grilli. Ma tu che fai? Non ho capito che cosa fai di mestiere. Io lavoro all'aeroporto, quando gli aerei hanno la batteria scarica, li spingiamo per metterli in moto. Per cui no, tu esci dal lavoro, ascoltavi, accendevi la radio. Sì, noi sono 50 giorni che non scopiamo, non facciamo niente. Vabbè, adesso, più. 50 giorni che non scopi, per carità. Noi stavamo per lasciare un messaggio alla segreteria. Noi chi? Noi chi? E siamo un gruppo di anonimi zanzarini che purtroppo sono abbandonati e che cazzo dobbiamo fare? Comunque è gente disperata, c'hai lasciato, comunque. Ma no, poi l'aggravante che tu sei andato, c'hai lasciato con Parenzo alla 7, che sì. Ha confermato che le certezze nella vita sono 4. Questo è. Quali sono le certezze nella vita? La fame, la morte, l'immondizia e le cazzate di Parenzo. Noi stavamo rovinati, non ho capito. Aspetta, non ho sentito neanche per un istante, per un frame, la mancanza di questa gente. E ti dico di più. Cioè, sì. 50 giorni è calato il PIL. La cosa più interessante è questa, che tu dici per 50 giorni non l'abbiamo scopato. Adesso quello è un problema tuo, però, che non è legato alla zanzara, perché non è che siamo assolutamente. Ma scusa, ma posso fare una domanda? Dimmi un'altra trasmissione dove si parla di figa e di cose concrete. Sì, no, d'accordo, questo ti do ragione. Questo ti do anche ragione. Però non è che Venezia, no, che fanno quattro film da casa, questa trasmissione solo per questi ricordi, ecco, diciamo, No, non solo per questi cose, pure Parenzo che ci fa ridere, non è questo qua, che sì. Come cabarettista non è male. Detto questo. Ma quello è un conduttore della, di una trasmissione importante, la 7. Personaggio? Ma come si chiama questo qui? Si chiama Claudio D'Avellino. Ci credi se io in tutti questi giorni non ho sentito proprio di questa gente, di questi Claudio D'Avellino? E perché non dai fanculo alla zanzara, scusa? Ti piace la zuppa, il biscotto, metterlo dentro, ti piace? Cosa non te ne frega niente? Avrei sentito la mancanza di Claudio D'Avellino in questi giorni, o no? No, ma questa qui è aerofagia orale. Noi siamo gente. L'Italia che lavora. Ci hai lasciato con Parenzo sulla 7, Cruciani, ci hai abbandonato. Perché chi ma vede. Tu stai sostenendo una cosa: che chi guarda la sera Parenzo in televisione non è l'Italia che lavora. Questo un po' potrebbe anche essere vero. No, però, chi guarda Parenzo la sera, che sono quelli radica chic, quelli che cagano Margherita, quelli che anche lui, evidentemente. Cagano Margherita non è male, che vuol dire? No, questo è radica chic, quelli sono caga Margherita, quelli mica cagano merda. Quelli che cagano margherita profumato, poi quando scorreggiano è aria di Positano. questi qua, sai chi è Parenzo? Parenzo è uno che ha cavalli, per esempio quest'anno ci stava benissimo, no? Per esempio il Negretto dappertutto avrà cavalbio, no, perché noi ci facciamo la fede, che cazzo. Sì, quella fu clamorosa, anch'io quella è stata abbastanza clamorosa. C'era un bellissimo film del 1994 di Francia in cui diceva: ma noi ci siamo stretti per i negri, voi perché non lo fate? Ecco. No, ma lui con Capalbio non c'entra niente, però non volevano un tot. Un esperto di cinema questo miserabile. Intanto anche sul cinema potrebbe darti le piste sul cinema questo qua, Claudio D'Avellino. No, guarda, io poi ho fatto le scuole basse perché papà purtroppo non mi ha mandato a scuola. Non è un problema di scuola, sa, il suo. Non sono un acculturato come dei parenti, hai capito? No, ma non è quello il suo problema, Sicili. E qual è il problema? Non lo credo. Ne ha tanti, evidentemente, però. Parenzo, c'eri tu, Salvini, Grillo, La Boschi e Renzi. E noi stavamo così, cioè senza Cruciani. Però devo dire una cosa, che La Boschi, contro la quale non ho nulla, però si è boldrinizzata, perché ha detto che bisogna utilizzare le parole ministra, eccetera, eccetera, e improvvisamente mi sta sui coglioni. Cioè non mi è stata mai particolarmente antipatica La Boschi, me ne fottevo. Da quando è iniziato, credo da ieri, da oggi, a una festa del PD, dell'Unità, non so come diavolo si chiamano, a dire che bisogna utilizzare, ed è giusto utilizzare i termini ministra, deputata, eccetera, eccetera, mi comincia a stare sui coglioni. La boldrinizzazione della Boschi. Dove termina la logica, comincia la zanzara. Siamo al top. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Certo che la vita senza zanzara è poca cosa. No, è pesantissima, è una tragedia, Cruciani, devi trovare un rimedio. Al più presto, eh? Proprio prima di subito, Cruciani, prometticelo. Ti aspettiamo. Ciao. Cruciani, porca puttana, senza di te non vivo più, non ce la faccio più a stare senza la zanzara. Dimmi che torni a settembre, ti prego. Ciao, oh, Cruciani, ma senti, io tutta l'estate che mi ascolto il podcast, tutte repliche, ma quando cazzo riniziate, oh? Ragazzi, è semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri, o quanto rubano i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-717-1701. Siamo al top. Allora, questo è un modo divertente di annunciare i nostri numeri di telefono, no Parenzo? È straordinario, fantastico. Allora, devo dire una cosa, che bisogna qui appoggiare con tutte le nostre forze, caro David, i bravi ragazzi di Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, come diavolo si pronuncia? No, tutt'altro, stavo per dire. Ma sei impazzito? Cioè, Charlie Hebdo vanno appoggiati al 100%. Io, come sai, come ricorderai, criticai anche quando uscirono quelle vignette, quindi non è che sono nuovo. Ma che c'entra questa cosa qua con le vignette? Tu ricordi, cioè, che quando ci furono quelle vignette, sì, io dico, ma è normale che qualche islamico si possa sentire insultato. E da qui invece roba, chi è che si possono sentire insultati? I parenti delle vittime del terremoto italiano? Non, beh, ho capito. Assolutamente sì, chiunque. Assolutamente sì, semplicemente perché questi qua fanno senziente. Ah, semplicemente per il fatto che questi qua fanno una vignetta in cui mettono insieme il sangue, le lasagne, i morti del terremoto, volendo dire che in realtà la mafia mangia sul terremoto, no, questo eccetera, l'hanno detto dopo, questo è impreciso, loro hanno fatto il giorno dopo le polemiche, sì, sì, quell'altra vignetta, perché sono due, l'altra vignetta che non fa, sì, neanche ridere, che spiegava, dice, che non spiegava. No, non prendetevela con noi, con Charlie, ma prendetevela con la mafia. Questo era il senso che ha fatto, sì, ma per spiegare quello che avevano fatto prima. Comunque, guarda, al di là di questo, quello è un giornale di satira. Non si può dare né troppa importanza a un giornale francese che vende anche pochissimo, facendone un caso di Stato. E non capisco chi si offende per queste cose qui. Non è che Charlie Hebdo va bene prima e adesso non va bene. No, ma infatti a me non faceva ridere neanche prima. Ma non fa ridere nemmeno a me, ma chi se ne frega? Subito, non c'entra niente, ma chi se ne frega? Si può ridere anche sul terremoto, si può fare satira anche sul terremoto, cioè, ma tranquillamente, senza nessun problema. Soprattutto. Ma nessuno l'ha chiuso quel giornale, non è che qualcuno ha chiesto. No, ma addirittura Alfano è diventato quasi sgarbiano dicendo quella frase. Ha fatto una battuta straordinaria, ha risposto a una domanda e ha detto giustamente quella matita. Senti. Abbiamo pianto i loro morti. Loro hanno riso dei nostri. Usando la loro satira avrei un suggerimento su dove devono infilare la loro matita. Cioè nel culo, però. Mi pare perfetto. Guarda, la cosa fondamentale è questa. È vero che non fa ridere, non faceva ridere. Prima di capirla quella roba lì ci ho messo forse un giorno e forse ho dovuto aspettare la vignetta successiva in cui si spiegava, secondo loro, forse era una scusa anche non dovuta, che intendevano la mafia. Ma perché trasformare questa cosa in una, no, tutti offesi, cioè, senti il sindaco di Amatrice che dice? Cioè ancora scavano. La satira è una cosa, e l'insulto alla comunità è un'altra, cioè c'è tutto un limite, no? Per cui cioè io ti dico, ma come cazzo si fa che a fare una cosa del genere? Cioè questo è un insulto a una comunità, a un popolo, e so, diciamo, esterrefatto, dai. Un insulto alla comunità, sì, una porcheria totalmente gratuita, una vignetta su un giornale francese satirico in cui si mettono insieme i morti del terremoto e le lasagne, un insulto alla comunità. Sì, no, ma neanche ridere, la satira deve essere graffiante contro il potere. Qui che potere c'è? C'è della gente che è morta in un terremoto. La satira è divertente quando va contro il potere. Lì non fa lì, cosa c'è? Ma che decidi tu contro il potere? E ci sono dei morti? Dei morti, morti in un terremoto, peraltro. Ho capito, siccome il terremoto in Italia è sempre fonte di polemiche, la mafia, la gente che ci mangia sopra. Sì, ma a parte che vignetta lì nella prima non c'era nessuna mafia, c'erano delle. E che cosa volevano fare? Pigliare per il culo i morti? Non ho capito, così gratuitamente. Volevano fare la solita cosa loro, per cui sono irriverenti, ma non si capisce cosa voglia parlare. Comunque, obiettivo raggiunto. Si parla di questa roba qui. Obiettivo raggiunto. Allora andiamo a Milano, Giulio, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Niente, volevo dirti, sentivo prima che parlavate della ragazza, quella sulla passerella. A parte che posso dirti che il sindaco di Amatrice va troppo in televisione, si fa troppo vedere. Cioè, è continuamente in televisione, per carità, grande rispetto. No, ma l'ho visto anche a Tiki Taka, per carità, fa benissimo sia Pardo ad invitarlo, sia lui ad andare forse a tutte le trasmissioni, non lo so, però uno dovrebbe anche. Questo serve a tenere accesi i riflettori sulla ricostruzione, su quella tragedia, benissimo. Sì, può andare, insomma, sì, anche alla prova del cuoco, per me. Sì, per carità, però insomma, un po' troppo presente lo vedo, no? Come se non dico non vedesse l'ora, perché non si può dire, come se fosse lì che no, che... Ma lo invitano, scusami, giustamente. No, ma per carità, va benissimo tutto. Poi a cosa serve? A tenere accesi i riflettori sulla ricostruzione. E quindi bene, benissimo. Tenere accesi i riflettori, ci vuole il sindaco da Medici per tenere accesi i riflettori. No, dai, ma se anche quello contribuisce a monitorare, a capire a che punto sono i lavori di ricostruzione, che non sono ancora iniziati, ovviamente, purtroppo. Maurone, chi c'è? Mauro, caro Parenzo, c'è Mauro. Incredibile dictu, Mauro, prima puntata. Mauro! Che succede? Sei carico? Non sono carico, sto esplodendo. Stai esplodendo addirittura? Come mai stai esplodendo? Ascolta, dimmi, mi che è successo? Mi sono dovuto beccare per un mese e mezzo quel coglione che hai a fianco, sì, con quei capelli dipinti che sembrava inzuppato nell'incrocio dei calzolai. No, però scusami, non è che sei... coglione! Ma voglio dire una cosa. Non eri obbligato! Ma stai zitto! No, se tu lo facciamo, comune... non puoi parlare! Non eri obbligato, Mauro, non eri obbligato ad andare c'è sulla... C'è un problema, il comune di Mantova... Sì. Mantova, aspetta, fermo lì. Ti dico questo, Mantova, la città straordinaria perché ci sono... Bellissima, molto bella, sì, molto bella, sì. C'è palazzo... Stupenda. Dove dentro c'erano gli affreschi di Giulio Romano. Bene. Sì, certo. Tutto questo, per colpa tua, da un anno e mezzo è stato cancellato. Colpa mia. Ti spiego, sì, anche per colpa tua, perché hai dato voce a questo qui. Cioè, tu dici... Ci sono turisti che si rifiutano di andare a Mantova per la presenza di questo signore. Allora tu devi sapere, caro Cunciani. Ascoltami, l'assessore alla aspetta cultura, un attimo, Mauro, fai parlare, no? Poi ti dico solo questo: l'assessore alla cultura, giustamente, per rilanciare la città, cosa si è inventato? Si è inventato il cosiddetto tour dei mostri. Cioè, dice, siccome il nostro territorio è depresso dalla presenza di questo personaggio qua. E tu dovresti venire subito, allora, che sei mostro. Allora noi adesso inventiamo il tour della mostruosità, cioè giusto c'è la gente che adesso va a vedere la casa. Tu sei il numero uno, c'è un cesso. Ma non abita a Mantova però, è diverso. Capito? Sì, ma lo sento, ma tu l'hai visto Parenzo? Ma tu l'hai visto? Che imbarazzante, il tour dell'orrore. Sì. Vabbè, ma cosa vuoi dire? Non ho capito. Adesso allora, Parenzo ascolta. Dice che tu getti fango sulla città di Mantova. Molti mantovani mi dicono, mi scrivono, ma a noi me, no. Io mi vergogno! Mi vergogno di essere mantovano! Sono tutti coglioni mantovani! Vabbè, adesso sono non è... Sì, sì! Ma perché sono tutti coglioni? Hanno paura della sua ombra! Ma sono perché? Che vuol dire? Ma che vuol dire? Tu sono dei cacasotto? Vabbè, ma che vuoi dire? Perché hai chiamato Mauro oggi? Prima puntata, allora, perché hai chiamato? Dimmi. Allora, primo. Visto che lui dice che sono nullità, quando in marzo hanno avuto quel coglione di Renzi. Vabbè, ma che c'entra adesso Renzi a marzo? Che ci frega noi? Perché hai chiamato oggi, no, Mauro? Dai, allora, dai una ragione. Ho conosciuto il cugino. Sì, il cugino di chi? Della ministra Boschi. Ma quando l'hai conosciuto il cugino della Boschi? Non giovedì scorso, l'altro ancora, due giovedì fa. Hai conosciuto il cugino della Boschi? Che si chiama Carlo Boschi. Come si chiama? Carlo Boschi. Carlo Boschi, vabbè, allora hai conosciuto. E dunque? E sai, quando gli ho parlato di Renzi, non me lo parlare per carità, che mi fa diventare verde. Cugino. Ma perché? Scusa, aspetta. Il cugino della Boschi. Sai che mi ha detto? Che ti ha detto? Sai? È quello che si fotte mia cugina, quel coglione. No, beh, ragazzi, no, però. Mauro, l'ho detto così. Mauro, ho capito, ma è una follia il quello cugino. Che ma dai, il cugino, ma una, detto, è un racconto. Lui, il tuo cugino. Ma è un racconto assurdo, dai, su, ma non è una cosa che si può accettare. Allora, sai che mi ha detto anche? Che ti ha detto? Sempre che ha preso l'euro da 100.000 euro. Che perché ha preso? Perché ha preso? 20.000 euro da 100.000 euro rigando con la sua puttana. No, hai vabbè, capito? Vabbè, ragazzi, Parenzo, anche decido. Perché sono qui che sto esplodendo? Parenzo, sto coglione! Sta esplodendo, facciamolo esplodere. Lo facciamo esplodere. No, con i soldi rossi, sto deflezionemente. Mauro, ma che hai conosciuto? Ma parli del nulla, stai parlando. Parli del nulla. Come Palmiro Togliatti che si scopava la. Vabbè, la ma siamo alla chiacchiera. Chiama la chiacchiera più ridicola. Dai, Mauro, mi hai rotto i coglioni con queste storie. Ti ho raccontato quello, mi ha detto questo, quello è mi ha detto questa cosa. Ma dici una serie di. Ma dici una serie di stronzate inenarrabili, Mauro! Dici una serie di stronzate inenarrabili! Ma vai! Mauro, la gente a Mantova, di la verità, Parenzo, la gente a Mantova si vergogna della presenza di Mauro. Dimmi. No, ma c'è gente che ha cambiato, ha chiesto, ha cambiato città. Ma dici che non ti mandati a fanculo, eh? No, perché siccome che io le cose non me le indico, che cosa ci guadagnava suo cugino dire così. Vabbè, suo Mauro, cugino, non mi interessa il cugino di coso, quello che dice, quello che ti ha detto, non mi interessa. Pensavo che tu volessi parlare di cose importanti. No, cioè, dispiace che con tutta la gente che se ne va all'estero qualcuno rimane sempre qua. I boschi, i monchi, i De Benedetti, i Armini, con tutti i parte del circolo. Del centro-sinistra. Mauro, ti saluto, ciao. Democrazia cristiana. Mi hai rotto i coglioni stavolta. Dario da Milano, vai, Dario. Dario? Sì, pronti, sono qui, stavo ascoltando un dimmi, po' dimmi, tutti dimmi, voi. Dimmi. Il casino che c'era in ballo. Vabbè, grazie per l'occasione. Dunque, io vorrei arrivare subito a ciò che vi fa, diciamo così, bollire il sangue. Cosa? Ed cosa ti fa bollire il sangue? Che è palese, che è molto evidente per chi... diciamo è attento alle cose, poi ci possiamo sbagliare, per carità, ma sulla Raggi, su Roma, su dove i 5 Stelle le loro intenzioni sono quelle di far bene, di fare qualcosa per questo paese, è sotto gli occhi di tutti e mi pare che allora, che sta succedendo? Allora lì a Roma, lì a Roma dove il magna è magna, io ci ho fatto persino il militare. Ah beh, hai fatto il militare a Roma, allora sei tutto di Roma. No, certo. Ma anche altre cose, amici. Ho fatto il militare a Cuneo, ma non dire stronzate, dai. Lì a Roma, proprio i 5 Stelle stanno sottraendo il prosciutto con tutto l'osso. E allora? A quei barboni del PD. Allora? Che succede? Allora è chiaro che questi del PD stanno facendo di tutto, sì, e di più. Ma scusami, cioè, tu sostieni in pratica. Aspetta, tu sostieni che l'avviso di garanzia alla Muraro e altre cose sono tutto frutto di un complotto contro i 5 Stelle? Allora, sì, vanno a prendere anche il pelo nell'uovo. Sì, certo. È tutto un grande complotto. Cioè, questi hanno vinto con oltre il 60%, 70%, non lo so, Parenzo, quanto hanno vinto. E c'è il complotto contro i 5 Stelle per non farli governare. Ma non dire stronzate, Dario. I poteri forti. Ma non dire stronzate con i poteri forti. Fermo lì. Il denaro e quant'altro. Vabbè, ciao. Oh, ragazzi. La vostra trasmissione è una bomba. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Siamo qui sulla spiaggia di Rimini e ci domandiamo, ma la prossima settimana, Cruciani, inizierà di nuovo la zanzara? Anastà, tu che ne pensi? Io veramente non me lo domando proprio perché quello ti brucia il cervello. Ragazzi, è notte fonda, ma volevo sapere una cosa, ma quando cazzo tornate dalle ferie, eh? Voglio la zanzara, voglio la zanzara, voglio la zanzara, voglio la zanzara. Oh, ma quando torna la zanzara? Cruciani, è il 24 agosto, fai schifo, fai ancora in vacanza stai. Devi tornare, maledetto. Lorenzo! Eccoci qui. Dove cavolo eri? Oh? No, dove ero? Ero qui. Hai messo il viva voce nel frattempo. Ero qui a riflettere, ma no, non c'eri voce. A riflettere su Mauro Damanto, ma che quando mi parla di relazioni presunte, eccetera, avendo parlato con altre persone tra Renzi e la Boschi, devo dire a Mauro Damanto che me ne sbatto i coglioni, perché di queste cose non me ne frega assolutamente nulla. No, ma l'unica cosa che dispiace è che c'è un fatto positivo, cioè che si è allungata le aspettative di vita, cioè la gente vive più a lungo. Sì, e questo è un fatto positivo che me lo chiedete. Questo, allora? Che ecco, c'entra? Però questo ha dei, no? Cioè, tu dici, ancora una volta stai augurando la morte a Mauro, però non no? Non mi permetterei. No, però, amico mio, mi no. Mi basterebbe semplicemente che si applicasse a lui la fuga dei cervelli, cioè se per caso se ne andasse all'estero, molto lontano, tipo in Australia. Molto lontano. Sì. La cosa sicuramente non mi turberebbe, anzi, e credo anche a molte altre persone, questo sicuro. Allora, io direi di andare a Monza da Leonardo, dal signor Leonardo da Monza. Vai Leonardo, vai, vai, dimmi. Luciani? Dimmi, caro, dimmi. Ascolta, sto correndo. Sai che sono arrivati anche un sacco di messaggi su te e Natania, David? Ecco, c'è moltissimi, no, per adesso no, però nei prossimi giorni potrei mandarli. C'è molti, ma anche carini, messaggi carini, soprattutto sulla Tania, devo dire, la verità. Però non dei messaggi perversi, pornografici, eccetera, dei bei messaggi. Ma veramente questi non devono neanche pronunciare il nome perché lo portano. Questi qua che ascoltano, quelli che chiamano, distinguere quelli che chiamano, sì. Non devono neanche pensarlo il nome, perché solo pensarlo lo sporcano. Addirittura. Ci sono dei nomi che non so pronunciare, lo sporcano con la loro proprio grezzezza, con la loro, no? Sono grossier, gente grossier. Grossier significa, per tradurre dal francese allo zanzaresco, significa sostanzialmente grossolani. Grossier, bravo. Cioè, sì, in realtà lo cercare su internet. Sì, grossolani, diciamo burini, eccetera, eccetera. Vabbè, Leonardo, vai, dimmi. Lorenzo, che cazzo si lamenta? C'ha una moglie bella, io non riesco a capire tutto sto bigottismo. Io ho chiamato. È quello che dico pure io, bravo. Ma scusami, Leonardo, tu stai correndo, no? Stai correndo. Evidentemente hai una grande capacità di resistenza, perché corri e si sentono anche i piedi sbattere sull'asfalto. E nello stesso tempo parli in maniera abbastanza tranquilla, senza un fiatone importante, o no? Sì, però mi fa incazzare, Cruciani. Perché ti faccio incazzare? Dimmi. Mi fa incazzare perché io sono tornato dalle vacanze, ho detto, bella, chissà di cosa parlo, poi è uscita la roba di Charlie Hebdo e ho detto, vuoi vedere che quel cazzarone dà ragione a quelli di Charlie Hebdo? Beh, ma mi pare assolutamente normale, non solo do ragione, ma li sostengo contro tutto quel bigottismo assurdo italiano che era dalla parte di Charlie Hebdo, quando c'era la vicenda, tranne Parenzo, forse pochi altri, e quando c'era la vicenda dell'Islam, eccetera, eccetera, che diceva addirittura che non si poteva rappresentare Maometto in una vignetta, e adesso non si possono rappresentare i morti del terremoto dentro una lasagna. Anche all'epoca che erano. Sì, sì, per carità, tu quello eri e quello sei rimasto. Cioè, dal mio punto di vista. Cioè, non si possono mettere i morti sotto una cosa. Dai, su. No, perché c'è la sollevazione sui morti. Sui morti non si può fare satira, ma dai, su. Non farà ridere, chi se ne frega che non farà ridere? Chi se ne frega? Ma non dico che non fa ridere. Se tu non metti un freno alla libertà di espressione. Quanti chilometri hai fatto, Luna? Ma non lo so, sarò 6 o 7 chilometri. 6 o 7 chilometri, mamma mia. Ascolta una cosa. Dimmi. Se tu non metti un freno e chi lo decide sto limite della libertà di espressione? Chi ma lo perché decide? Sennò io posso chiamarti e dire come cazzo è morto tuo padre? Già uno te l'aveva ma detto. Ma che c'entra? Ma è un'altra roba quella, no? Perché sennò non è che hanno dato un nome e un cognome ai morti, dai. Ma tu puoi fare anche una battuta sulla morte di qualcuno, non c'è problema. Ma sono un coglione se lo faccio, Cruciani. Ma non è quello. Senti, perché i coglioni non bisogna difenderli. Senti, allora, non è questione di coglioni o non coglioni. Possono far ridere, possono essere bravi, meno bravi, possono fare una satira che non strappa un sorriso. Non è quello il punto. Il punto fondamentale è un altro. Il punto fondamentale è un altro. È che questi qua hanno fatto una vignetta, un paio di vignette non particolarmente felici dal punto di vista artistico, sui morti, sul sangue, sul terremoto, mettendoli sotto poi una lasagna. E volevano dire, l'hanno spiegato dopo, che la mafia che ci guadagna. Ma spiegare le battute vuol dire. Ma che sì, ma per carità, ma quello uno può giudicare una battuta riuscita o non riuscita. Ma non è neanche ma una dov'è battuta, l'offesa? Ma dov'è l'offesa? È un giornale. Ma ti ho già detto che la satira va contro il potere. Che far ridere. Ma, no, cioè, ma a parte che quello lo dici tu, a parte che quello lo dici tu che va contro il potere. Potrebbe, no, lo dice qualunque vignettista. Ma potrebbe andare contro chiunque la satira, non è che per forza contro il potere. Beh, in generale la satira fa ridere quando va contro il potere, quando fa. Vabbè, Leonardo, hai verificato che quel cazzone di Cruciani in realtà difende Charlie Hebdo. Sì, è vero, difendo Charlie Hebdo anche quando non mi fa ridere. Bisogna saper difendere le persone anche quando non fanno ridere, anche quando una cosa ti è indifferente. A me che mettono i morti sotto una lasagna non me ne può fregare di meno, né devono sentirsi offesi. Penso che si debbano sentire offesi da altro, magari, no? I signori di Amatrice o il sindaco, eccetera, no? Una vergogna, ma che cazzo stanno a fare, eccetera. Si occupi della ricostruzione senza preoccuparsi di Charlie Hebdo. Ma che cazzo gliene frega agli abitanti di Amatrice di Charlie Hebdo? Di Charlie Hebdo, ah sì, i signori di Amatrice, i parenti dei morti, quelli che sono sopravvissuti, ma chi l'ha vista? Offesi, ma quando l'hanno vista? Su un giornale francese? Ma di che parliamo? L'hanno visto dai su siti, web, dalle, dici, vabbè, network. Ma vattene, va, non è che c'è gente là che fa la traduzione, che sta lì attenta, c'hanno tanti cazzi quelli che si occupano di Charlie Hebdo, ma dai, su, non diciamo stronzate. Giuseppe, provincia di Cuneo. Sì, ciao Cruciani. Sì. Ma ti hanno già detto tutto, mi sembra, no? Io sono un crucianiano quasi a prescindere, un antiparenziano quasi a prescindere. Però ma non c'è niente a prescindere qua, sbagli se sei antiparenziano a prescindere. Sì, eh. Ma perché no? Perché per una questione di punti di vista anche politici, io dissento da quello che dice Parenti. Meno male, meno male. Questo mi rincuora, è l'unica buona notizia della giornata questa. Allora? In effetti tu stasera hai cravatto in pieno sulla questione di Charlie Hebdo, perché chi ha magari, come si dice in gergo, qualche morto in casa e questa cosa la sente come, perché capisci che non si può far la sente di che nulla. Cosa? Che un giornale francese pubblica delle vignette, se ne fotte totalmente, no, se ne fotte totalmente, non c'è, gas, non c'è una gas, persona allora... ad Amatrice, non c'è una persona ad Amatrice che sia interessata. Vogliamo fare qualche numero, facciamo qualche numero a caso di Amatrice, facciamo qualche numero a caso di Amatrice, vogliamo scommettere? Esistono ancora i numeri ad Amatrice? Esisteranno, no? È arrivata l'eco di questa cosa. Esisteranno i numeri ad Amatrice, no? Esisteranno i numeri di telefono di gente ancora, case ancora in piedi, gente che non accetta questa cosa proprio per una questione. Ma va bene, non accetta. Vuoi scommettere che su 10 persone che chiamo ad Amatrice non ce n'è uno che si interessa di questa cosa? Non qua non ci credo, guarda, qualunque scommessa, il mio numero se la vuoi fare la facciamo in qualunque no ma adesso la faccio, adesso chiamo 3-4 persone a caso, 3-4 persone a caso ad Amatrice, numeri a caso, magari non rispondono perché al di là di tutto. Adesso lasciamo perdere l'emergenza del terremoto che comunque ci sta in questo caso, ma non lo sanno nemmeno, te lo dico io, non lo sanno nemmeno il mio atteggiamento. Io appoggio queste robe qui perché mi sembra che la satira, ma perché sei un anticonformista? Ma no, ma perché non vedo niente di strano, questi morti messi sotto un coso, messi sotto una lasagna, va bene, d'accordo, volevano dire, sì, forse non ripeto, era chiaro. La mia convinzione è che questi non avevano più tante cartucce nel carniere. Vabbè, hanno voluto far parlare di sé, hanno voluto far parlare. Così è facile. Ottimo, stupendo. Tu sei troppo giovane, tu non ti ricordi forse neanche Parenzo, ma quando c'era il mare anni fa, io ho qualche anno... Ragazzi, facevano qualsiasi cosa, facevano qualsiasi cosa. Io mi ricordo che avevano organizzato sulla morte di La Malfa, una cosa squallida, perché quando uno... La morte è una cosa... Ma La Malfa all'epoca era un politico che contava, ma come si fa a fare questo paragone? Ma che c'entra? Fermo lì. Il mare satirico che nulla ha a che vedere con quella roba lì. Ma il male ironizzava su tutto, io sto dicendo... Andrea da Como, grazie Giuseppe, Andrea Como, vai. Cruciale, dimmi. Hai ragione quando dici che l'ironia e la satira vanno difesa a spada tratta, perché sono una forma di libertà, hai ragione su questo. Però vai veloce, vai. Parenzo si arrabbiava anche quando parlava male, perché si era offeso perché Charlie Hebdo parlava male, aveva fatto anche le vignette su Maometto. Ascolta, il fatto fondamentale... Io ho detto che capisco un islamico che si potesse sentire offeso per quelle vignette, perché no, erano... ma perché, ascolta, quella secondo me una delle credenze che ha sono entità astratte, chiamiamole così, ma fare satira su un dolore fisico, c'è gente che... è morta veramente. Ma non è che volevano pigliare per il culo i morti, dai ragazzi, su, non volevano pigliare per il culo i morti, dai, non esageriamo, dai. Ho capito. E allora basta. Ma si sono spiegati male. Si saranno spiegati male, ma questo accanimento, questa cosa contro questi... Ma non è un accanimento. Ma si dà anche troppa importanza a un cazzo di giornale francese, dai, su, ma chi se ne frega. Quello assolutamente. Ha sbagliato pure il mio amico Feltri a Libero quando ha detto, no, ci sarebbe da sparargli addosso, hanno fatto tutta questa polemica. Quella è un'esagerazione. Ma chiaramente non lo vogliono fare sul serio. Voglio dire semplicemente che si dà troppa importanza a un cazzo di giornale francese in questo caso. Che fa... Ma no! Nell'era della comunicazione globale, per forza, no? Vabbè, cioè, Andrea, ciao. Luca, Ascoli Piceno, vai. Luca, vai, dimmelo. Luca. La fattura. Luca? La fattura? Pronto, di che sta parlando questo? Di che stavi parlando, Luca? La fattura, le cose, di che? Lavoro, io lavoro ogni tanto. Che fai di mestiere? Di mestiere c'ho una ditta di meccanica. C'è una ditta di meccanica, ma di che stai parlando? Di fatture non pagate, di puttanate che sono state fatte, di torti, cose, soldi non arrivati, di cose. Soldi che c'è da pagare. Di soldi, che c'è, soldi da pagare. Che c'è da pagare. Quanto paghi di tasse? Abbastanza. Quanto paghi? Dimmelo. Abbastanza, sui 30.000 euro all'anno. 30.000 euro all'anno? È una piccola impresa artigiana. 30.000 euro all'anno di tasse. Dunque, quanto ti resta in tasca ogni mese a te? Quanto guadagni? Ma prima mi rimaneva qualcosa, adesso se devo essere sincero non c'è più guadagno. Pago gli stipendi, pago tutto e ma qualcosa rimane... E come campi, scusa, qualcosa ti rimane, no, per campare o no? Sì, è il minimo indispensabile. Tipo quanto? Sarà sui 1.500 euro al mese. 1.500 al mese, vabbè. Ho due figli. Vabbè, e Luca, perché mi hai chiamato? Io chiamavo perché all'inizio della trasmissione parlavate della campagna per la fertilità della Lorenzini. Allora? Che vuole far fare i figli agli italiani. E sì, avete paragonato... No, addirittura ha detto che è brutto avere un solo figlio. In una delle cosiddette slide, questa cosa orrenda che poi sono scomparse, credo, Parenzo, cioè in una delle, sì, delle cose... Stavo rifacendo la campagna di comunicazione. Sì, in una di queste robe della campagna di comunicazione ha addirittura scritto, comunque fatto capire, eccetera, che è meglio avere due figli piuttosto che uno. Beh, tu sarai d'accordo perché ne hai tre. Ma, sì, non è che li ho fatti perché me li ha detti, me l'ha detto qualcuno. Cioè, ma ti rendi conto o no? Cioè, ti rendi conto? Siamo arrivati alla... da quello che mi dice qualcuno. Quindi. Dai, su, ma un ministro che ti dice che è brutto fare un solo figlio, che bisogna stare attenti alla fertilità, ma uno fa i figli quando cazzo vuole, se poi scopre di non essere fertile, sto parlando naturalmente della donna, pazienza, ci sono altri metodi. Ma ecco, questo è il primo errore, perché invece dovrebbero esserci anche quelli maschili, perché anche l'uomo... Tra l'altro ci sono anche gli uomini, certo, non c'è dubbio, ci sono anche gli uomini. Allora Luca, che vuoi? Allora, io praticamente sentivo che all'inizio veniva paragonato, c'era una sorta di paragone con il ventennio fascista. Beh, l'ha fatto Sgarbi, sì, dicendo che una roba tipo Farinacci, tipo fascisti. Certo, è vero, perché sembra che lo Stato ti voglia dire... Ti voglia dire che è successo, ragazzi. Ti voglia dire di fare i figli, di fare gli esami, eccetera, eccetera. Sì, però io volevo ricordare una cosa che mi raccontavano i nonni, che nel ventennio fascista c'erano anche dei begli incentivi per fare i figli, mentre invece oggi gli incentivi non ci sono, perché si prendono tutto loro e con i figli come si fanno? E questa è anche la presa in giro. Vabbè, che Federico da Roma, dai. Federico da Roma, vai. Federico, dimmi. Federico? Sì, pronto. Vai, dimmi. Buonasera. Charlie Hebdo, tu c'hai ragione. Ma io mi ricordo che quando successe quella carneficina e tutti erano esperati, tutti Gesù e Charlie Hebdo, certo, poi sono andato a vedere le vignette, le ho sfogliate, erano veramente delle porcherie. Bravo. Però tutti Charlie Hebdo. Io mi ricordo la Santanchè lì alla Zanzara, che già era diventata una democratica perché sarebbe spesa per Charlie Hebdo, e meno male che voi l'avete stoppata, gli avete dato una botta in testa che ancora me la ricordo. Adesso questi, sì, sempre con la loro schifezza, eccetera, ma hanno detto la verità. Una volta che dicono la verità, questo paese è in mano alla mafia. È vero o non è vero? Sì, l'hanno spiegata, l'hanno spiegata dopo. L'hanno spiegata dopo e non si capiva nella prima vignetta. L'hanno spiegata dopo, va bene, tutto quello. Ma una volta che l'hanno spiegata, basta. Ma sì. A noi ci dà un fastidio tremendo dire, cazzo, siamo in mano alla mafia. È vero, siamo un paese mafioso. Fermo lì, Roberto Cuneo, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, buonasera a tutti. Niente, premesso che la vignetta di per sé è brutta, però questa è libertà di espressione. In un paese dove, cito L'Aquila, abbiamo rubato e riso, ci siamo divertiti alcuni alle spalle dei terremotati, ma di che cazzo stiamo parlando? Ci offendiamo perché un francese ha fatto una vignetta? Ma vaffanculo. No, no, ma Roberto, ma hai ragione perfettamente, è quello che dicevo io, cioè c'è una assurda, addirittura le ambasciate, i ministeri mobilitati, i politici che parlano di una vignetta su un giornale francese, così, ma, certo. Ragazzi, di che parliamo? Dai, su. Ma dai. Luciani, Parenzo, oggi mi sposo, ma voi dove cazzo siete che sono costretto ad ascoltare i podcast di febbraio, cazzo? Siamo qui sulla spiaggia di Rimini e ci domandiamo, ma la prossima settimana, Cruciani, inizierà di nuovo la zanzara? Anastà, tu che ne pensi? Io veramente non me lo domando proprio perché quello ti brucia il cervello. Sì, va bene, l'estate, le spiagge, la musica, la figa, tutto bello. Ora ridateci il nostro sangue e merda quotidiani. Bentornati, miserabili. Giuseppe da Parma, vai. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. Allora, se i tecnici, le amministrazioni comunali, tutto quello che riguarda delle ricostruzioni, delle norme antisismiche, ovviamente hanno fallito, il problema non è di chi lo denuncia, ma di chi le realizza. Sì, ma questi non hanno denunciato niente, hanno fatto una cosa, hanno fatto hanno fatto una vignetta, punto e basta, che poi hanno spiegato successivamente. Ma questa vignetta la dice non tutta, è che hanno fatto la denuncia, non è che hanno fatto la denuncia universale contro le malversazioni. Ho capito, ma l'hanno spiegata, c'è una polpetta di morti e i colpevoli sappiamo chi sono. Punto. Sì, l'hanno spiegato dopo. È lì, la polpetta è lì disegnata, poi chi è il colpevole faccia un atto di fede, faccia un qualche cosa, perché è evidente che i colpevoli non sono i morti, ma i chi li ha messi sotto delle macerie, costruzioni nuove, costruzioni con certificati antisismici. Sì, sì, va bene, adesso la polemica su questa roba qui non mi interessa. Tiziana da Milano, vai. Ciao, no, volevo dire comunque non era una polpetta, era una lasagna. Sì, è una lasagna, strano, sì, che non abbiano usato la matriciana a questo punto. Comunque, sul Fertility Day volevo intervenire, perché comunque la cosa grottesca non è tanto non è tanto un messaggio che si voleva dare, perché è stato sbagliato il tono di voce, non tanto il messaggio in sé, perché tutte le nazioni, tutti i paesi hanno una politica pro natività. Ma la cosa grottesca è stata poi la sua spiegazione, cioè va bene, non vi piace, la rifacciamo, perché comunque essendo del settore della comunicazione, purtroppo, caro Parenzo, ci sono ministri che portano le ossessioni della propria vita, in questo caso fare i figli, che è stata un'ossessione per Lorenzin a lungo, poi nel dibattito pubblico. Cioè, allora, siccome lei è riuscita a fare i figli grazie ad alcune tecniche dopo un po' di tempo, allora, questo non credo proprio. Beh, sì, cioè, come non credo proprio? Cioè, è una persona, no, questo che non c'entra niente. La propria esperienza personale è stata portata in una campagna di comunicazione. Non credo proprio. Il tema della fertilità è un tema che attiene alla salute pubblica. Questo sicuramente. Ma chi l'ha detto? Hanno sbagliato la campagna pubblicitaria. Ma non è vero, ma nessuno si deve occupare della fertilità. Uno fa i figli quando vuole, senza occupare. Ma certo, ma il tema della sensibilizzazione sulla fertilità è un tema. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente questa cosa. Ognuno sa che ha un periodo biologico, no? Poi non è che se sai di essere fertile ma non vuoi fare un figlio lo fai lo stesso solamente perché sei fertile in quel periodo. Ma di che parliamo? Dai, di cosa parliamo? No, però è vero che anche molti giovani non sanno quando è la fertilità. Va bene, pazienza, lo sapranno, lo leggeranno, e allora, una volta che lo sanno, che fanno? Che fanno? Lo sanno e fanno un figlio? Lo sanno e fanno un figlio, no, perché si devono sbrigare? Ma no, hanno la consapevolezza. Ma no, la consapevolezza. Ma la gente si informa da sola, non c'è bisogno di un ministero che te lo dica. Sono le storture assurde. La gente si informa da sola su quando può fare i figli o no. Non è che c'è bisogno del ministero. La maggior parte dei quali non servono a un cazzo, diciamo la verità. Sui pacchetti di sigarette c'erano scritte delle cose. Ma quella è un'altra cosa che riguarda la salute, riguarda. Guarda il cancro, eccetera, che c'entra? Ma quello riguarda la comunità. È giusto o no? Ma quello ma quello però riguarda questioni di vita o di morte, cioè, ecco, ma dai. Siccome il Ministero della Salute si occupa di salute e la fertilità è un tema legato alla salute, uno può dire è sbagliato. Io la campagna, non sopporto le campagne di informazione su questa cosa qua, non le sopporto, perché mi danno l'idea dello stato socialista oppressivo. La gente si informa da sola, non c'è bisogno di un ministero che te lo dica. La maggior parte delle volte sono fuori tempo, fanno cose sbagliate, come in questo caso, cose sbagliate, fuori tempo, antiche. La gente ne sa molto di più, la maggior parte degli italiani ne sanno molto di più di quanto lo sappia il ministero. Questo è evidente, è chiaro. La mia mente è ormai controllata completamente da voi. Siamo al top. La Zanzara. Sono in un pub a Copenaghen, è la notizia che la Zanzara finisce oggi, sto morendo dentro. Anche in ferie si passa dal casello di Carisio. E ti penso, Giuseppe, e ti penso, David. Allora, Damiano, Verona, vai. Walter, un piccolo intervento per spiegarvi come funzionano le cose in Italia. Il nostro governo si fa bellissimo con le con la politica del welfare. Io ho una si fa bellissimo dove, scusa, quando? Quando parlano di bonus, di incentivi, di politiche fiscali. Adesso aprite le orecchie e vi spiego come funziona. Un'azienda che assume una donna che resta incinta e che ha un bebè, si trova nel momento in cui questa ragazza neomamma si trova a volersi licenziare, perché si vuole licenziare, l'azienda deve sostenere, aprite le orecchie, i costi del licenziamento, 1200 euro di tasse, nonostante si licenzi lei, cosa che succede solo quando un'azienda di solito licenzia. Vabbè, ma che vuoi dire con questo? Scusa, qui non siamo a focus economia. Che cosa vuoi dire, Damiano? No, vi spiego come si fa a fossare le aziende con le politiche. Vabbè, allora vabbè, non me ne frega niente. Che cosa vuoi dire? Vabbè, ciao, Davide dalla provincia di Latina. Dai, vai a focus economia, vai a spiegare le cose, non ce ne fotto un cazzo. Davide, dai. Ciao, buonasera. Dimmi. Allora, io sono parzialmente d'accordo con te per quanto riguarda la censura. Sì. E però parzialmente in disaccordo, ti spiego subito. Davide, già mi fai mosciare i coglioni, parzialmente d'accordo, parzialmente in disaccordo. Sì, perché, mi sono perché già, la, mi sono, satira, la satira mi sono la già, possiamo fare mi sono tutti, già stufato, la mi possiamo sono... fare tutti. Sì. Però devi anche, secondo me questi che l'hanno fatta non sono grado, non sono capaci, questa è la verità. Uno, la vignetta che hai fatto ha avuto bisogno di una spiegazione, ciò significa che cambia mestiere. Seconda motivazione, adesso si fanno vignette satira purché faccia notizia. Che paragone, che c'entra Charlie Hebdo? Charlie Hebdo ha fatto una scelta, ha fatto un attacco religioso politico. Questi se la sono ritrovata sta disgrazia, quindi tendenzialmente secondo me manca la delicatezza, non c'è più delicatezza. Ma la satira non è mica delicata, non è mica delicata la satira. Capisci bene, dai, Cruciani, non sto dicendo questo. Sto dicendo che manca la delicatezza di cosa? Ma la satira è feroce, se la piglia anche con ma i morti. Ma sì, ma ci sono persone che a parte che in questo caso non se la sono presa con i morti, ma comunque. No, non se la sono presa con i morti, ma non tutti l'hanno capito e non tutti hanno la tua stessa testa o la tua stessa cultura. Anzi, forse la matrice è piena di persone semplici, quindi è lì la delicatezza. O forse, vabbè, Davide, ho capito, forse cioè molto veloce, è stata troppo immediata. Sai che non ho capito. A me non mi è piaciuta, a me mi ha fatto venire volta a stomaco. Vabbè, ti ha fatto venire volta a stomaco. Dunque, alla fine non sei d'accordo con me perché ti ha fatto venire volta a stomaco. No, io sono d'accordo con te parzialmente. Parzialmente. Mi fate questo numero di Amatrice un attimo, voglio vedere se funziona. Non ci stanno censure. Però sti signori, se vengono messi alla gogna pubblica come degli imbecilli, se lo meritano, perché non sono capace a fare vignette. Tutto va bene, qua, Davide, per ciao, buona serata. La dobbiamo allungare, che lei allunga. Pronto, lo scoiattolo? Salve, Amatrice? Amatrice, lo scoiattolo. Salve, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, salve. Senta, Così chiama da? Chiamo da Radio 24, dalla Zanzara, mi chiamo Cruciani, salve. Sì. Lei è la proprietaria di questo che è un albergo, un ristorante, cos'è? Sì. Volevo sapere, non è un albergo, un villaggio. Un villaggio. Lei conosce la parola Charlie Hebdo? Ma lei deve fare un'intervista, no, proprio volevo, adesso? Volevo capire se lei... Ma ha altro da fare? No, ma è una cosa seria. Beh, farlo sul posto. No, ma è una, è una cosa seria. Volevo capire se lei conosceva Charlie Hebdo. Certo che lo conosco, so, ho una certa cultura. No, non era, una presa per il culo. Era per capire se lei si è sentita indignata da questa cosa qui. Questo era per capire, perché secondo me uno se ne frega, ha altri problemi, no? Nella vita, giustamente, ad Amatrice in questo momento. Non è che si può preoccupare di una vignetta pubblicata in Francia, certo poi è circolata sul web. Lei che ne pensa? Scusi, glielo chiedo, ma sono curioso di saperlo. Pronto? Pronto? A richiama, va. Dove andiamo? Stefano Napoli, vai Stefano. Ciao Cruciani, dimmi, buonasera. Dimmi. Allora, senti, io vorrei spiegare al signore che ha chiamato prima che dobbiamo, come ti devo dire, ci hanno spiegato questa vignetta perché noi non siamo stati in grado di capirla, non perché ci fosse bisogno, secondo me. Allora, io voglio dire una cosa. Se sono stati fuori luogo quelli di Charlie Hebdo, ma cosa saranno mai stati Vespa e Del Rio, che parlavano in prima serata, a pochi giorni da un terremoto, di un volano per l'economia, di L'Aquila come il più grande cantiere d'Europa? Allora, beh, indirettamente, indirettamente è vero che il terremoto, che il terremoto produce qualche vantaggio per alcune aziende che ci lavorano, in questo senso, cioè, su questo non c'è dubbio. Ma va benissimo, ma il ministro degli interni, se critica Charlie Hebdo, poi deve anche chiedere le dimissioni del suo collega di governo Del Rio, oppure deve chiedere anche le dimissioni di Vespa, che sono tra l'altro pagati con i soldi dei contribuenti entrambi, secondo me. Io penso che noi siamo troppo bigotti, opportunisti e soprattutto ci ricordiamo delle cose a giorni alterni. Oggi critichiamo Charlie Hebdo, però poi ci dimentichiamo come se niente fosse di certe parole a pochi giorni da una tragedia. Come si fa a parlare a pochi giorni da un evento del genere di progetti per l'economia? Non so, a me questo va bene, Stefano, grazie. Marco Catania, vai. Sì, ciao Cruciani, bentornato. Intanto io mi indigno perché qui si sta parlando della propaganda e tutti qua ci stiamo indignando. Invece sull'incentivo bebè nessuno si è indignato. Quando si parla di soldi non esiste indignazione. Questa è la mia proposta, questa è la mia proposta. Vabbè, Fabio da Milano, vai Fabio. Sì, ciao, buonasera Giuseppe. Dimmi. Volevo solo dire sulla Lorenzin invece, che secondo me tu fai un ragionamento su Milano che è diverso rispetto al resto d'Italia. Cosa c'entra Milano? Cosa c'entra il resto d'Italia? Non ho capito. No, nel senso sulla fecondazione assistita e quant'altro. Secondo me invece in molte altre parti d'Italia sanno poco di questo. Ma cosa sanno sulla fertilità? Cioè cosa sanno? La gente fa i figli quando vuole. La gente fa i figli quando vuole. Io ho 4 figli, per esempio. Però non trovo nulla di male nel fare una campagna. Tu dici uno spreco di soldi? Ma no, ma è una campagna inutile. Non è che la gente fa i figli perché sa di essere fertile. Cioè la gente fa i figli quando vuole fare i figli, punto. A prescindere dal fatto che uno è fertile, non è fertile, no, eccetera, eccetera. Magari è uno spunto per le persone ad informarsi. Ma sì, ma informarsi, la gente è molto più informata di quello che uno può secondo informarsi, no. Ma su che cosa informarsi? Su se sei fertile o no, se puoi fare i figli o no? Ma uno quando vuole fare i figli fa le analisi, punto. Decido di fare un figlio, faccio un'analisi, scopro di non essere più fertile, pazienza, ci sono altre tecniche, altre situazioni. No, allora questo è un altro. Ma no, ma è così, l'unica cosa è questa, cioè ci vogliono imporre la famiglia con più figli, peraltro, perché una di queste cose propagandistiche, eccetera. Che non condivido. Ma io dai, quello. C'era il fatto che stare con un figlio da solo non va bene. Bene, ma di che parliamo? Dai, vabbè, per ciao. La Cina, per esempio. Sì, vabbè, ciao. Io con la zanzara ci volo. La zanzara. Allora, mentre David è andato come al solito al cesso prima della trasmissione, ma resta qui con noi. Quando non c'ero in queste settimane è tornato d'attualità il mio amico nemico Vassallo, quello del movimento Meta, quello degli animalisti, eccetera, eccetera, con cui ho battagliato a lungo nei mesi scorsi. Ora Vassallo è tornato a fare il coglione, amico mio, t'hai ricalmato. Hai riempito di botte, ti sei fatto menare pure, vi siete menati con il fidanzato della tua ex, eccetera eccetera, t'eri un po' messo da parte, non dicevi troppe cazzate, sei tornato prima a rompere i coglioni ai pescatori, addirittura hai fatto piangere un bambino perché sei andato a rompere balle a un padre che insieme ai propri figli pescava in un fiume perché non bisogna pescare perché si uccidono i pesci, primo. Secondo, se ne è uscito con una cosa. Cos'è che ha fatto? Ha preso la merda, ha paragonato. Sentiamo un po'. Siamo tutti uguali, abbiamo due occhi, abbiamo un naso, una bocca, c'è chi è più brutto, chi è più bello. La differenza qual è sostanziale fra quelli come me, dicevo, e quelli come voi? Sapete, questo qua che cos'è? Un cioccolatino, cioccolato, si mangia. Ci assomigliamo, sapete perché? Noi siamo i cioccolatini. Ecco qua. Voi siete la merda, siete gli escrementi. Cioè, noi vegani siamo i cioccolatini, voi siete la merda, gli escrementi. A meno da quello che capisco di questo delirio, eh. Ancora Vassallo, vai. Lo capite? Questo siete. Guardate bene. Merda. Cazzo, e puzzate anche. Avete capito perché avevo questo guanto bianco? Semplicemente per farvi notare la differenza. Sembriamo tutti uguali, ma non siamo uguali. Ricordatevelo. Go vegan, i migliori siamo noi. I coglioni siete voi, noi i migliori siete voi, i coglioni siete voi. Viva Vissani, eh? Viva Vissani, viva Vissani. I vegani è una setta. Una setta? È una setta. È una setta. Sono guarda, come. Perché sono, ridi la sono come testimoni setta, di Geova. Sì, eh? Sì, uguale. È una setta. Perché ma è nel 1944 questi inglesi si sono riuniti. Si sono. Dimmi. No, dice che dice stupidate, Vicente. Io? Oldani ha detto dice stupidate. Certo. Perché? Non sapevi che i vegani sono. Io ammazzerebbe tutti, però non fa niente. Vegani. Non vegetariani. Moderato. In umbro io l'ammazzerei tutti, ma è un'espressione per dire io non li voglio vedere, cioè non è che li vuole ammazzare tutti, ha polemiche eccetera, ha detto li ammazzerei tutti, ma qua li ammazzerei tutti nel senso che non li posso vedere, e quando diventano una setta, io ne ho conosciuti tantissimi in queste settimane in vacanza di vegani che mi hanno abbracciato fortissimo, vegani moderati, cioè vegani normali, non Vassallo, go vegan, voi siete merda, io cioccolatino, vegani normali, gente normale che rispetta le scelte alimentari degli altri, non gente che ti considera un poveraccio, un assassino, una testa di cazzo, un figlio di puttana, un pezzo di merda, perché così ti considerano un complice del grande omicidio che si commette nei confronti degli animali. Ma dai, su, quest'anno sarò molto duro con queste persone, molto molto più duro di quanto lo sono stato nel passato. Traffico veo chi la zanzara. Allora, David, dato che sei tornato dal cesso, io direi di chiamare un personaggio che ha iniziato bene la stagione, il nostro amico Zamparini, perché per non sapere nella genere scrivere ha già cacciato un allenatore, ha cacciato uno che si chiama Ballardini, questi nomi a te non ti dicono nulla, Ballardini, ha preso uno che si chiama De Zerbi, fate scattare il telefono, vai. Chi è? Maurizio? Chi è? Come stai? Sono Cruciani, quanto tempo? Una vita. Eccolo lì. È una vita che non ci sentiamo, come andiamo? Ti vedi che non avevi più bisogno di me, a posto. Ma no, perché sono stato fuori, amico mio. Ogni tanto bisogna pure fermarsi, o no? Sì, per forza, se no impazzisti. Che devi fare? Intanto tu hai ricominciato come prima, mi sembra, David, no? Ha ricominciato come prima. Sì, ha ricominciato come prima, licenziare, fare tutto. No. E come no? Io non ho licenziato nessuno. Io t'ho ritrovato, t'ho lasciato nella vicenda Iachini. Si è licenziato lui. Ma come si è licenziato? È il mio destino, l'ultimo anno che sono a Palermo è il mio destino, che non ci devo rimanere come era lì. Si è licenziato. No, però scusa, tu non lo volevi più, ci avete litigato sul mercato, sulle cose, non è che si è licenziato così. Abbiamo fatto il mercato più forte, sì. Più forse di tutte le altre del nostro livello. Ma com'è che vogliono tutti? C'è nessuno si licenzia senza prendere un euro, scusami. Ma sì, perché è il mondo, questo mondo del calcio, che è un mondo del calcio. Cioè, voglio dire, hai preso quest'altro ragazzo giovane, speriamo che quest'altro regga. Ma era il meglio che stava sul mercato, io ho sempre preso quando ero a Venezia. Tutti allenatori che vogliamo mettere la mano sul fuoco che lo tieni fino alla fine della stagione, lo vogliamo promettere qui? Lo vogliamo promettere? Ma sicuramente c'è anche una clausola che se dovessi esonerarlo prende un casino di soldi. Cioè, quanto prende questo? 500.000 di base? Poi? Sì, 500.000 prende di base, per cui è tanta roba per un ragazzo che ne prendeva 150 al volte. E la clausola? Qual è? E la clausola prende 500.000 se io lo esonero. Senti, ma alla fine tu dici l'ultimo anno a Palermo, perché l'ultimo anno? Perché alla fine ti sei deciso a vendere ormai. Perché vedrai che fra un mese io non sarò più il presidente paziente, perché sto trattando con due corvette che entrano dentro nel paese, perché ho 75 anni, ragazzo. Ci saranno altri cinesi in Italia? No, non ci sono altri cinesi in Italia. Il governo cinese ha dato un input, siccome la comanda uno solo, un input ai imprenditori cinesi di investire nel calcio europeo, perché vuole poi importare il calcio in Cina per 5, 6 anni, 7 anni. Ma diciamo che è per questo? Ma loro dicono la scusa che è questa qui, e loro lo fanno in maniera pragmatica, per cui a un certo momento io ho un contratto per fare investimenti. Ma chi preferisci, gli americani o i cinesi? No, io preferisco la cordata del fondo cinese, non sono cinese, è un fondo cinese, perché non vogliono fare solo il calcio, ma vogliono fare investimenti per produrre imprese, per produrre posti di lavoro, quello che mi interessa. Vabbè, insomma, preferisci se fossi cinesi in realtà? No, non è che li preferisco, no, sono più forti finanziariamente. Sono più forti, e molto probabilmente costruiscono lo stadio, fanno il centro sportivo, in più fanno investimenti con me nel settore turistico, ricettivo e altre cose. Comunque, Mauri, hai ricominciato da capo. Primo allenatore saltato, indovina. No, ho finito. Indovina dov'è un po', Parenzo. Oh. Secondo te, se uno faceva una quotare dai bookmakers, no? Chi è che fa saltare il primo allenatore? Quanto era quotato Zamparini, secondo te? Zamparini aveva le quote. Purtroppo non ho scommesso. Ma è bravo, lui capisce qualcosa o no? No, Ballardini è un ottimo allenatore. Come allenatore di calcio, poi fuori dal campo non è ottimo. Cioè, a un certo momento uno non può, dopo due domeniche, mandare un sms e dire: il presidente, non sono d'accordo con lei, voglio andare a casa. Addirittura, il discorso è. Cioè, gli potresti pure chiedere i danni? No, gli potrei chiedere i danni sicuramente, parecchio anche. Cioè, a un certo punto tu metti nei guai una società, una persona che sta trattando con un altro gruppo, eccetera, dici: no, me ne vado, no, tu un messaggio e chiedimi i danni. Sì, te ne vai, però mi dai soldi tu, no, io che ti devo pagare, o no? Bravo. O sbaglio? No, scusami. Io, secondo me, non dico una cosa sbagliata. Parezzo, che fai? Difendi i lavoratori come al solito? Beh, sì, tecnicamente. Allora, un allenatore non è un lavoratore. No, cos'è? Assolutamente. Che cos'è? No, è un professionista che guadagna una barca di soldi. È un privilegiato, dai, è un privilegio. Bravo. O no? Non mi dirai mica che Conte è un lavoratore al cielo. Cioè, tu dici, gli allenatori. È uno che lavora, però. Cioè, non sono. Tecnicamente, anche tu sei uno che lavora. Anche Parenzo è uno che lavora. Ma cioè, tecnicamente, anche tu sei un imprenditore. Poi sul resto si sarebbe no, discusso. Però. Uno più di voi, certamente. No, però dico, lui vuole dire una cosa: che alla fine gli allenatori sono strapagati rispetto a quello che fa. Questo non vuol dire. No, è tutto il sistema che è strapagato. Che un giocatore guadagni in un anno, o addirittura in un mese, quello che uno guadagna in tutta la vita, non è appunto. Senti, ma tu che cosa voterai al referendum? Non so neanche cosa sia il referendum. Te ne sbatti con gli occhi. No, non mi sbatto. Questo paese è disastrato, completamente disastrato. Vabbè, quello lo sappiamo. Avrebbe bisogno di una rivoluzione nel nome dell'amore. Farei. Non lo so. Come rivoluzione nel nome dell'amore? Scusa, aspetta. Perché l'unico valore che noi abbiamo dimenticato è l'amore per le persone. Ma quello, il partito dell'amore, lo voleva fare Mona Pozzi, amico mio. Che c'è? No, ma lascia stare. Ma perché travisi i discorsi? Quello è sesso, non è amore. Ma no, ma quello è il partito dell'amore, lo voleva fare. Che è il cane? Che c'è? Ma cosa dice? Cioè, ma quale rivoluzione? Ma non l'amore sessuale, l'amore per la gente. Il Papa parla d'amore. Ma quale amore per la gente? Ma cosa dici? Amore per la gente? Cosa vuol dire? Chi sei? Però vuol dire quello che governa il mondo spirituale è l'amore. Voi due non lo conoscete neanche, che cos'è con le cazzate che sparate tutti i giorni. Ok? Il mondo. Ma che cazzo vuol dire? Va bene, l'amore. Ma cosa sta dicendo? L'amore per voi è solo sesso, ma va a fanculo, va. Ma che c'entra? Scusa. Ma non è quello. Avete detto Moana Pozzi. Voi due, Moana Pozzi. Ma il partito dell'amore lo voleva fare Moana Pozzi. Il partito dell'amore è Papa Francesco. Io sto dicendo cosa che c'entra il Papa col partito. Ma guarda che è impazzito. Ma chi parla? Allora, non c'entra il partito politico. Il partito dell'amore è un nuovo movimento. Deve dire aspetta, lui sta dicendo una cosa. Pensare che una volta chi reggeva una nazione, 1000 anni fa, 2000 anni fa, lo faceva per la gente, per il popolo. Gente. Vabbè, da quello tutti lo fanno in nome del popolo, anche adesso. Sì, buonanotte, mia nonna. Ho capito, ma tu hai citato la rivoluzione nel nome dell'amore. Io ti ho ricordato sommessamente che il partito dell'amore una volta è stato fatto. Per carità, non c'è niente a che fare con Papa Francesco, però il partito dell'amore era targato signora Moana Pozzi. Ma un'altra roba, quello che tu dici, un'altra roba. Dai, sì, bravo. Però pure quelle si ispiravano all'amore. Quando volete, venite a scuola a me, di etica. Di qualità da me. Di etica. Okay? Va bene, sì, di etica e spiritualità. Quando volete, ma perché quando adesso passate dal Friuli, mi fermate da me. Perché sei diventato anche religioso, sei diventato. non sono religioso, sono spirituale, una cosa diversa dal religioso. Sì, ma sei diventato le anche... Le religioni hanno distrutto la spiritualità con questo la è vero, questo è vero, questo è vero. Non ho capito, ma cosa... Ma adesso preghi molto tu? Sei uno che prega io molto. Io prego, ma non io prego Dio perché esiste Dio, e Dio è amore. Io lo chiamo tutti i giorni Dio d'amore e di luce, sempre. Lo prego tutti i giorni. Preghi Dio generico, così. Dio non è generico, è unico, è Dio d'amore e di luce. È l'energia che ci ha creato. Lo conosci ognuno, tu, Dio d'amore e di luce? È capace, ognuno può credere in quello che allora, vuole. Allora, c'è Parenzo è ebreo, c'è qualcun altro che è cattolico credente nella Sacra Romana Chiesa. No, altri sono protestanti, altri sono... ebreo, quell'altro sarà cattolico. Io rispetto tutti. Tu invece... Io ho una mia idea e ognuno è Parenzo. Tu invece, preghi il Dio così, un Dio? Dio. Io prego Dio di tutto l'universo. No, non mi interessa io niente quello che prega lui. Io penso che il Dio sia unico, che poi l'uomo l'ha interpretato per avere del potere in tutte le religioni, l'ha sempre fatto. Il Dio è unico, vabbè. Chiudiamo le così. Le religioni sono basi dei supermercati, ma di teologia, ecco, hai capito? Che ha detto Parenzo? No, voglio dire, si occupasse di calcio e di supermercati anziché di teologia, di cose che come ne frega niente. Ma vedi, quando vuoi venire da me ignorante a scuola, io non mi occupo di calcio e supermercati. Hai capito? Ma occupi di quello di cui si occupa, cioè a me non interessa di occuparmi di fisica quantistica, che non so niente, no? Al mese, e conosco la storia, e conosco tutto. Ma sarebbe come se mi... invece di sparare cazzate tutto il ma giorno. Ma cosa dici? Okay? Sarebbe Marezzo, come se mi dicessero a me che occupi di fisica quantistica. Come potere il mezzo che c'hai. Che c'hai in mano per parlare, non adoperarlo come potere. Trasmetti amore anche tu. Trasmetti amore, capito? Amore, va bene. Trasmetti amore la sera. Ragazzi, ciao. Trasmetti amore. Quando volete, ma quale amore devo trasmettere io? Ciao. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual needs. Sì, è vero quello che leggo, che sembrava quasi Verdone, sembrava quasi Verdone. E Cesare Milano, vai, sei Verdone quando parla del film col padre incazzato che va nelle comunità, eccetera. Cesare da Milano, vai. Eccoci. Dimmi. Sì, ciao. No, stasera mi sembrava che non eri proprio, non stavi bene. È la prima volta che do ragione a Parenzo sul discorso di Charlie Hebdo. Sì. No? Cioè, mi sembra veramente una follia. Però pensare ma cosa che ti sembra fatto... una follia? Cosa? No, aspetta. Le vignette su i posi di Cristo e il terremoto. Ma hanno fatto benissimo. Hanno fatto benissimo. Avrebbero fatto ancora meglio se lo facevano su quelli di Nizza, per esempio. Ma non lo so, l'avranno fatta pure su Nizza. Non lo so, non mi ricordo. Se li hanno lì in casa, cioè potevano farlo direttamente con loro. Hanno ottenuto un risultato molto chiaro. Tutta l'Italia ha parlato di un giornale di cui ci si era dimenticati persino la testata. Io so che sono quattro che non legge nessuno, però mi sembra una follia, cioè non è satira. È la prima volta che do ragione a Parenzo, sono proprio degli stupidotti. È la prima volta in vita mia che dico che Alfano ha un barlume, veramente un barlume di intelligenza, ha detto quella battuta della penna dentro il culo. Va bene, Salvatore dalla provincia di Napoli, vai. Salvatore. Ciao. Dimmi, Salvatore, dimmi. Pronto? Dimmi. No, io volevo solo dire buonasera, Cristiano. Volevo soltanto dire una cosa. Molto probabilmente il governo, con quel fatto della procreazione, sta cercando di fare un discorso perché, insomma, forse quelli che sono arrivati hanno molti più figli dei nostri. Non ho capito niente, alza la voce, Salvatore. Molto probabilmente quelli che sono arrivati hanno più figli di quelli che sono gli italiani. Fanno più, non credo che c'entri qualcosa. Tra qualche anno ci potrebbe essere anche un cambio. Non lo so, comunque a me non piace. Un governo che mi dice la fertilità, bisogna fare più di un figlio, eccetera. Sì, eccetera. Perché come la giustifica? Solo così. Va bene. Marco da Prato, vai. Marco. Sì, buonasera. Dimmi. Ciao Giuseppe. Allora, io voglio parlare dei terremotati. Volevo fare un discorso un pochino diverso, forse anche un po' cattivo, però insomma è abbastanza realista. Dimmi. Allora, io dico che al di là del rispetto dei morti, che quando c'è morti, vabbè, massimo rispetto, però dico, e mi faccio una domanda, una parte di questi morti, con tutti i dispiaceri del mondo, avranno una casa al mare, qualcuno avrà una macchina anche bella, qualcuno avrà non una è detto, barca. Non è detto. Comunque, una parte, mettiamo una parte, statisticamente parlando, una buona parte. Mi chiedo, io abito in un paese a rischio, ho una casa vecchia, perché non metto in sicurezza la mia casa? Mi chiedo, io ho comprato casa anni fa, l'ho presa in un paesino fondamentalmente vecchio, la casa è vecchia, ho speso una bella... Tu vuoi dire che è la colpa anche di quelli Io ho speso per rimettere a posto casa. Vabbè, perché tu vuoi loro, dire la colpa io, è... devo, io cittadino, io contribuente devo pagare la casa a loro quando loro avevano i soldi, una parte i soldi per rimetterla a posto, e si sono comprate la casa al mare o una barca o una bella macchina. Io una Mercedes non ce l'ho. Io una casa al mare non ce l'ho, però c'ho la casa che deve essere venuto un terremoto. Cioè, tu dici, era, meno male non era, era responsabilità di quelli che c'erano le case. Però di... sì, se sei a rischio, perché io ogni anno mi deve venire quello della caldaia, ogni anno a controllare la caldaia è a posto, e io devo pagare una caldaia nuova se non è in regola, e qualcuno non deve mettere a posto la casa quando è a rischio. Ho capito. Ciao. E io contribuente devo pagare? Ho capito, ciao. Contro il logorio della vita moderna, la zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Cruciani, sono appena venuto a casa dal lavoro. Ascolto la zanzara con una bella birra e mia moglie che mi rompe il coglione perché ascolto la zanzara. Che cazzo devo fare? Malato di zanzara. Sono seduto in bagno a sentire la zanzara e dall'altra parte, in camera da letto, c'è una figa da scopare. Pazzo. Cruciani, noi autisti saralisti della GTT disobbediamo gli ordini tutte le sere, mettiamo l'auricolare e ascoltiamo la zanzara. Grande! Dalle 6:30 alle 9 c'è la zanzara. Chi sale sul mio taxi deve stare muto. Vabbè, questo è buono perché in realtà ci sono molti tassisti che mi hanno detto che per una sorta di discrezione, una sorta di rispetto nei confronti del cliente, abbassano il volume della radio perché magari temono che il cliente si inalberi. Non si può fare errore più grande. Cari tassisti, dovete lasciare fissa la zanzara e ve ne dovete fottere di quello che pensano i clienti. Se uno è scandalizzato o se uno arriccia un po' il naso, uno fa un po', no, si storce un po', chi se ne frega, lasciatelo lì, buttatelo fuori dal taxi a calci in culo. Stefano da Bergamo, vai Stefano. Salve, telefono per la campagna per la fertilità. Siamo i soliti disorganizzati, dovremmo fare con teutonica organizzazione quello che ha fatto nonno Adolfo, l'allevamento dei tedeschi con le divisioni Lebersborg, però... Cioè, non ho capito che cosa dovremmo fare come ha fatto don nonno Adolfo? Nonno Adolfo Hitler, cioè, che aveva fatto gli allevamenti dei tedeschi che si chiamavano le divisioni Lebersborg, però attenzione, li manteneva, Cioè, non ho capito, faceva bene Hitler a fare quella roba, non ho capito. No, voglio dire che è ridicola questa campagna qua. Allora se vogliamo proprio fare i figli, però lo Stato li mantenga, cacchio. Sì, non sì, ma al di là di... Ma va bene qualsiasi campagna di informazione, purché non scada nel ridicolo e purché non ci racconti che non è bello fare un solo figlio, bisognerebbe farne più di uno perché sennò quello resta solo, perché bisogna capire se uno è fertile o no, bisogna farli presto i figli perché altrimenti no, c'è l'orologio della fertilità, uno li fa quando vuole, se poi scopre di non essere fertile, a parte che ci sono pure gli uomini, insomma, no? Per cui la campagna è rivolta solo alle donne. Vabbè, dai, Francesco Caserta, vai. Veramente, Cruciati, sei fatto 3 mesi di vacanze. No, tre mesi no, a parte che non vacanze proprio non direi, ma comunque, insomma, Francesco, allora? Sembra invece di tornare rilassato, bello, sembra che sì. Hai fatto l'erba secca in mezzo alle zanzare. L'erba secca, cioè che vuol dire? Traduci. Sei troppo nervoso. No, sono tranquillissimo, guarda, sono ultra tranquillo, sono super tranquillo. Assolutamente non sono nervoso, no. Vabbè, ma che vuoi? Hai chiamato per dire se sono nervoso? Oh, Francesco? Niente, non risponde. Angelo Palermo, vai. Ciao Giuseppe, ciao, bentornato. Dimmi. Allora, Zamperini ci ha portato in Serie A, io sono di Palermo, ci ha fatto fare l'Europa League per 2 anni, lo ringraziamo. Siamo tutti assolutamente felici del fatto che abbia deciso di vendere, perché evidentemente non gli va più. Si vede, è una cosa palese. siamo riconoscenti, gliene saremo sempre, però siamo tutti per la vendita, preferibilmente ai cinesi perché sono più forti. Ma è quello che ci ha detto stasera, vuole vendere ai cinesi e dice che sono più soliti. Guarda, è 5 anni che dice che vende. Sì, è vero, è vero. Quindi è vero. Poi alla fine non vende. È 5 anni che lo ripete anche qui che vuole vendere. Perché... lo ripete, poi si vende i migliori giocatori, fa plusvalenze che solo il Palermo fa. Vatti a guardare i bilanci. Vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio di cose che riguardano solo il Palermo. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto. Se ne può tranquillamente andare a fare la sua pensione tranquilla a casa sua. Enrico, non gli manca niente. Su Charlie Hebdo hai ragione tu. Ti saluto. Ciao, ciao, ciao Angelo. Ciao. Allora, caro Parezzo, chi ti ho chiamato secondo te per la prima puntata, per la grande run 3 della Zanzara? Chi ti ho chiamato? Beh, prova a indovinare. Dovrebbe essere un'ottima scelta il professor Settis, che ad esempio è un grande intellettuale, ha scritto delle cose importanti. Professor Settis, ma secondo te, se io chiedo in giro al grande popolo della Zanzara chi è il professor Settis, secondo te lo conoscono? Sì. Non lo possono? Voglio dire, il fatto che ci siano un sacco di somari in giro non giustifica da non chiamare Settis. Oppure potrebbe essere il grande filosofo Galimberti, forse Claudio Magris, che è uno dei più grandi scrittori contemporanei. No, invece ti ho chiamato Giudi Bocca. Giudi Bocca si chiama. Giudi Bocca è un modo di dire. No, Giudi Bocca è un nome d'arte. Giudi, ci sei? Sì, ci sono, ciao David, ciao Giuseppe. David, sì, ti ha chiamato signor... non importa, ma insomma... David. Cara Giudi, quanti anni hai innanzitutto tu? 35. Da quant'è che fai la prostituta? Da quando avevo 18 anni. Una delle cose che sono scritte sul suo blog è faccio tutto ma proprio di tutto. Questo anche Renzi lo diceva in campagna elettorale. Come anche Renzi faceva in campagna? Proponeva di fare tutte le riforme, proprio tutto. Magari appunto la signora si riferisce a altro, però i politici in genere propongono tutto e proprio tutto. Cioè promettono tutto, però lei mantiene, credo, Giudi, no? Se non lo sbaglio. So, adesso questo... Io mantengo assolutamente, mantengo anche con prove, anche se poi insomma sono d'accordo con David, perché sì, io ho avuto la possibilità di toccare con mano e ho avuto esperienze, non c'è dubbio. Non sto millantando nulla. Con ho chi? Avuto politici di primissimo livello. Ah, addirittura, con chi? Uno importantissimo di centrodestra e uno scissionista, diciamo così. Uno scissionista, che e vuol dire? Uno, quelli erano i camorristi. Importantissimo di centrosinistra. E quello, diciamo, di centrosinistra, ero in tour a Bologna in quel periodo, mi ha chiesto naturalmente sotto un bellissimo compenso di mangiare molto il giorno prima per poi fargli trovare apparecchiato insomma un po' di feci, ecco, diciamo così, su un piattino al mattino per colazione. Aspetta, fermati un attimo, che è importante. Forse c'è la linea disturbata, non ho sentito esattamente. Allora David, la cosa è questa. Allora, il politico di centrosinistra, però so già che è una porcheria. No, è una porcheria, però è una porcheria, è una perversione, diciamo. Allora, la signora Giudi Bocca sostiene, e io ci dobbiamo credere fino a prova contraria, che avendo avuto un rapporto, credo una relazione, possiamo dire così, no, una relazione nemmeno. No, un rapporto, diciamo, di sesso con un politico importante di centrosinistra, o sbaglio? Di centrosinistra, esatto. Di centrosinistra, tuttora in attività codesto politico? Meno rispetto a prima. Meno rispetto a prima, questo qua gli dava degli ordini. Tra questi ordini c'era quello: mangia tanto, amica mia, la sera, così la mattina mi fai trovare le feci, le tue feci sul piatto, capito Parenzo? Questa era, diciamo, la per me è una grandissima porcheria, francamente. Assolutamente, però... anche per me è una porcheria. Guardi, assicuro, io che sono, come sai, come dire, ecco. No? Questo, ecco, anch'io posso dire da queste schifezze, anch'io assolute. Posso dire che questa roba qui non è nella mie, come dire, nelle mie, però per voi è tutto normale, quindi io vedi che non questo non per dire, scusate, la voce, questo per dire che cosa, questo per dire parte, cosa, ecco, invece appunto. L'altro politico, quello lì del centrodestra, sì, che invece sta di base, insomma lui non è romano ma mi viene a trovare sempre quando sono a Roma, sì, arrivava a casa normalmente casualmente con una diciamo una confezione piccolina di Nutella con dentro tantissima polverina bianca che io non uso, ecco, sottolineo, io non uso nessun tipo di sostanze. A che serve, scusami, a che serve la Nutella con la polverina bianca? Non no, ho capito. La Nutella, la confezione di Nutella era vuota ed era praticamente insomma piena di sostanzialmente di cocaina. Di cocaina, questo l'abbiamo capito tutti, ma chi è questo qua? Quando parli di scissionisti, che vuol dire scissionista? Beh, diciamo che lui fa parte di un grande partito di centrodestra, un po' scissionista, poi ha fatto un po' di casini col capo. Cioè stai dicendo che uno che era berlusconiano poi ha litigato con Berlusconi, cioè è passato come un Alfano? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Comunque questo tuttora in attività, codesto signore, o no? È in attività. Com'è che si sviluppava? Parenzo, scusami se entro un po' nel dettaglio, leggermente nel dettaglio, non troppo di questa cosa. Leggermente. Insomma, cioè tu la mattina ti facevi trovare queste tue feci là e questo politico di centro-sinistra cosa faceva? Guarda, aveva anche lui della cocaina e sniffava sta coca e poi faceva colazione con la cacca sostanzialmente. Parenzo, è un quadro abbastanza desolante. Ma tu, Giudi, quando devi fare sesso normale, al di là della diciamo di queste perversioni, eccetera, come fai? È impossibile ormai, o no? Guarda, per me è veramente difficile. Sono a favore della globalizzazione, perché fondamentalmente oggi è per l'integrazione. Che perché i ragazzi veri, quelli che veramente ti danno delle belle, dei bei colpi, ti fanno sbattere la testa contro i muri, magari sono proprio gli arabi. Ecco, questo è importante sottolineare. Cioè, tu non hai paura come la Lega, non hai paura come la Lega dell'invasione, diciamo, ma invece sei a favore dell'arrivo degli arabi in Italia. Assolutamente, sì. Capito, Parenzo? Questo sono, è fondamentale. Sono veramente molto importanti. Sono importantissimi, perché tu dici sono gli unici che alla fine gli danno sotto. Come dire, gli unici ma che... Ma sì, perché fondamentalmente gli italiani ormai, per mia fortuna e per fortuna del mio portafogli, vogliono solamente l'uccella, e quella insomma la sostanza delle cose. Così lei dice. Eh beh, chiaro, lei dice che vogliono solamente quello, cioè almeno secondo quello che racconta lei. Parenzo, tu per esempio vuoi l'uccello? No, perché è da fonte diretta la signora, però. No, tu per esempio non lo vuoi, non fai parte di quegli italiani individuati da giù di bocca. Caro, guarda, io non faccio parte di quel campione statistico della signora, però anche qui poi nulla di. Senti, ma è vero che Tinder e tutte queste applicazioni qui ti fanno perdere un po' di mercato? Sì, perché? Perché da quando ci sono queste applicazioni, clienti che bypassavano tutto andando a trans, si incontrano tra di loro, esatto. E ti tolgono il mercato, questo è interessante. Mi è capitato anche oggi, è venuto un cliente, subito dopo ne è arrivato un altro, quindi ho detto all'uno che c'era la presenza dell'altro, li ho fatti accomodare entrambi e praticamente entrambi mi hanno pagato e hanno fatto sesso tra di loro e io stavo lì un pochino come un soprammobile. Tu naturalmente se ti operi perdi un sacco di mercato, se ti operi. No, io non mi opererò mai, perché sostengo che operarsi significa amputarsi un braccio, quindi insomma fino a quando quello funziona è fonte di ricchezza, è fonte di guadagno, me lo tengo stretto. E che sei matta, scusa. Certo. E ti vuoi sposare con l'unione civile oppure no? Guarda, adesso mi era capitata una cosa veramente favolosa tra le mani. C'è un mio cliente svizzero, molto age, molto avanti con l'età, che qui ha circa 8.000 franchi al mese di pensione, che sta più di là che di là che di qua. E allora avevo telefonato subito, lui era propenso a, ho telefonato subito al mio avvocato per chiedergli insomma quali margini ci fossero nel caso in cui questo qua schiattasse per pigliare sta pensione. E in realtà manco l'avvocato sapeva nulla di questa storia. Tu volevi sposarti con questo in modo che questo qua magari schiattava tra dopo. Lui sicuramente schiatterà, perché prende un sacco di insulina, è molto agé ed è diciamo, ma non è, che cliente, forte, e che cliente è allora? Che cliente è? È un cliente a cui piacciono i piedi. Ah, piacciono i piedi, Parenzo, capito? Ognuno, sai che vuoi. Questo, no, questo mi sembra, tra tutto quello che è stato detto, mi pare anche la cosa meno. Ciao Giudi, ciao. Buon pomeriggio, ragazzi. Ciao. Mio padre 59 anni mi ha fatto conoscere la Zanzara. Adesso lui non l'ascolta più perché gli rompete i coglioni. Ma la malattia è passata al figlio. Siamo al top. Ragazzi, fantastico. Fermo in mezzo al traffico sul mio camion, mi giro, una macchina con quattro fighe cantano. Tutto il resto è noia. La Zanzara, siamo al top. Ciao Cruciani, prendi la Zanzara ai cinesi, così porta via anche Mauro da Mantova, Donato da Varese e Parenzo, tutti via, via, via, via, siamo al top. Io mentre faccio l'amore con mia moglie ascolto la Zanzara in cuffia wireless. Ciao ragazzi, io guido un carro armato e vi ascolto sempre con il podcast. Aspetta, adesso non posso più parlare. Ciao, buon lavoro. Luciani, il mio fidanzato è dipendente dalla Zanzara. Una droga, non lo sopporto più. Non parla d'altro. Thomas, provincia di Pistoia, vai. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Dimmi, quello è andato via che c'ha la 7, vai. Ah ok, sono un tassista di Montecatini. Montecatini, tassisti, grandi. Montecatini Terme, si seguiva e si discuteva di Charlie Hebdo, che veramente ci hanno rotto i coglioni. Chi hanno rotto i coglioni? Perché adesso non ma non sono i francesi, sono quattro disegnatori francesi, non è che i francesi che hanno rotto i coglioni. Siamo d'accordo che non sono i francesi, sono i disegnatori francesi. Ma loro, cioè, secondo me... Comunque a me la cattiveria piace, per cui anche la cattiveria sì, sui anche norti. A me mi piace la cattiveria, però c'è un limite che secondo me non si può barcare, perché... Ma allora si può tornare sui discorsi, allora ci faccio conto, se i discorsi del cazzo, che fa sgarbi, eccetera, eccetera, e allora ci fanno sempre niente, siamo allo stesso livello. È un discorso che si può fare, questo, no? C'è un livello che non si può passare, giusto o no? Bah, guarda, ma insomma io credo che alla gente di Amatrice, chi ha subito il terremoto, non gliene fotta nulla di Charlie Hebdo. Vito da Roma, vai Vito. Ragazzi, mi siete mancati tanto, ma io sono traumatizzato. Da che cosa? Non ce la posso fare a sentire tutti che tornano le vacanze e sono incazzati. Su WhatsApp c'ho una incazzata per il Fertility Day, su Twitter leggo quelli incazzati per il vestito della Salemi, poi su Facebook la Raggi, l'inglese di Renzi, e basta. Ok che settembre è un mese di merda, però datevi una calmata, cioè, non tutti... è che se vi gira male a voi dovete contagiare l'umanità. Oggi mi dispiace dirtelo, ma non stiamo al top, proprio no. Ma in che è successo? Troppa gente incazzata, dici? Mamma mia, una roba fuori dal comune. Cioè tu dici a settembre già la gente è incazzata? Oh, sono tornati dalle vacanze sta settimana e già gli ho dato il culo a tutti. Ma ho capito, ma gli ho dato il culo a tutti? A chi in particolare, per esempio? Ma tutti quelli che chiamano, quelli che hanno da ridire su un Fertility Day. Ma quello è normale, meno male che c'è gente polemica, meno male che c'è gente che... Sì, però... Vabbè, amico mio, ma se sei già stressato, mica è colpa mia. C'è una cosa curiosa, che a Roma la giunta Raggi pare che sapesse fin dal 18 luglio delle accuse nei confronti della Muraro, dell'avviso di garanzia, eccetera. A parte che ce l'hanno detto solo adesso, e dunque questo è clamoroso, ma la cosa incredibile è che volevano sempre dimissione dei politici indagati e adesso fanno i super legalitari, i super garantisti. Bah. Ciao ragazzi. La Zanzara, stazione della Zanzara. Siamo arrivati al top. Grazie per aver viaggiato con noi. A domani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.